Sono le 8:50 di lunedì 26 febbraio 2024 e Marco Giovenale ci chiede di commentare, ci chiama un po' a raccolta noi lettori di Slow Forward per commentare un articolo di Giulio Mozzi pubblicato appunto su Slow Forward, che parla di quello che sono diventate le librerie Feltrinelli, cioè dei posti dove si trovano solo dei prodotti che sono già saliti largamente sulla corsia preferenziale omologante del sistema editoriale Feltrinelli, che ormai dal 2015 insomma è una sorta di monopolio naturale insieme a Messaggerie, Gems, eccetera. E quindi fondamentalmente sono dei luoghi dove entri, il controllo dello scaffale è nelle mani, diciamo, di questo conglomerato di editori, e la libreria non è più quel rifugio dall'omologazione che insomma per tanti anni ha rappresentato una via di fuga rispetto al sistema dei media. Il posto dove entri e scegli, no, è un posto dove entri e qualcuno ha già largamente scelto. Sicuramente con considerazioni molto tristi quelle di Giulio Mozzi, condivisibili, compresa la conclusione che a qualcuno sembrerà un po' una bestemmia, e cioè meno male che c'è rimasto Amazon, che è il grande babau di tutti i discorsi che vengono fatti sull'editoria italiana. E il problema è che il nostro dibattito continua a essere molto avvitato sul tema del si pubblicano troppi libri, con lo spettro del macero evocato sullo sfondo, mentre per esempio il dibattito anglosassone è molto più orientato sulla difesa della diversità, no? Ricordate che in qualche modo, anche grazie a questo dibattito, lo scorso anno mi sembra sia stata scongiurata l'ultima definitiva acquisizione nel mondo dell'editoria, cioè quella da parte di Pearson Random House ai danni di Paramount, Simon & Schuster. Poi è bellissimo che i nomi che hanno questi gruppi editoriali, no? Che ormai ricordano America Online, AOL, Time Warner, oppure Verizon, Comcast, cioè il mondo dell'editoria libraria ricalca in tutto e per tutto i peggiori conglomerati del mondo mediatico, televisivo, diciamo così, governati anche questi dal presidio dell'attenzione. Intanto sta arrivando la metro, questo può essere molto suggestivo come suoni, però per un po' non credo che sentiremo più nulla. Vabbè, fa parte, dipendo dai liri. E quello che mi rimane da dire è che per esempio quando la catena di librerie inglese Barnes & Noble stava per fallire, è stata rilevata all'ultimo secondo da James Dount di Waterhouse, ha risolto in larga misura i problemi di questa catena senza dover nemmeno chiudere troppi punti vendita. In che modo? Restituendo il controllo dello scaffale, che prima era degli editori, agli addetti della libreria, che quindi diciamo tornano a fare i curatori, no? A stabilire dei percorsi e quindi a offrire come tratto distintivo di quei luoghi la diversità, la ricerca rispetto a un mondo tutto uguale che ci assedia da ogni angolo e da ogni schermo. Questo insomma per dire che la polemica che c'è da noi, si pubblica troppo, a me suona sempre un po' simile alla polemica sul suffragio universale, no? Ci si lamenta del fatto che tutti possono votare, ci si lamenta del fatto che tutti possono pubblicare un libro, perché si dà per scontato che invece il nostro di libro, il nostro di voto sia l'unico a contare, e questo secondo me ha davvero poco a che fare sia con la diversità sia con la democrazia.